Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. C'è il regolamento sulla par condicio, tornino in TV i talk show politici. La ripresa in Italia sarà lenta, secondo la Confcommercio, disagi nelle città per lo sciopero CGIL. Il Papa sullo scandalo pedofilia, il celibato dei preti resta un valore sacro, i nostri limiti e le nostre debolezze non inficino il nostro lavoro. Vuole provare la pistola e spara dalla finestra, ferito a Roma uno studente in gita scolastica. Buongiorno dalla redazione di GR24, da Maria Piera Ceci. In primo piano lo stop al regolamento dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella parte che blocca i talk show in periodo elettorale. Ne sa di più Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Nuovo elemento di polemica dunque nella già attesa campagna elettorale. Il TAR del Lazio ha accolto infatti la richiesta di Sky e la 7 a favore della sospensione del regolamento varato dall'autorità che disciplina la par condicio e che fissava la sospensione dei talk show di attualità politica fino al voto di fine marzo. Non si sono fatte attendere le reazioni qui in Parlamento, soprattutto se ora il dispositivo del TAR possa o meno essere esteso alle trasmissioni Rai. Ci aspettiamo che i ragionevoli criteri fissati dai giudici amministrativi, ha spiegato dal Partito Democratico Bersani, siano fatti propri dalla Commissione di Vigilanza Rai. La sentenza del TAR, commentato dal Popolo della Libertà Gasparri, mostra ancora una volta come la legge sulla par condicio sia superata. Ma sempre sull'intreccio TV e politica oggi c'è un'altra novità. Secondo alcune intercettazioni, Berlusconi avrebbe fatto pressioni per bloccare alcune trasmissioni Rai, in particolare Anno Zero. Di questo ha parlato Di Pietro, ascoltiamo. Denuncio il grave rischio per la democrazia che abbiamo accertato documentalmente grazie all'intercettazione proprio in queste ore, laddove vediamo e abbiamo constatato che il presidente del Consiglio Berlusconi interagiva direttamente con il direttore del TG1 e Minzolini e direttamente con un esponente importante dell'AGCOM per controllare l'informazione e zittire quell'informazione che non gli faceva comodo, così come fa nella Corea del Nord il padrone della Corea del Nord, così come faceva Saddam Hussein, così come faceva Adolfo dal suo bunker. Le frasi di Di Pietro contro Minzolini e Innocenzi sono degne di uno squadrista, replicato poco fa qui dal Popolo della Libertà il portavoce Capezzone. Da Roma è tutto. E proprio in questi istanti l'agenzia batte una notizia della replica invece di Augusto Minzolini. Non so di cosa si parli, non ho ricevuto nessun avviso di garanzia e poi quale sarebbe il reato, così commenta appunto il direttore del TG1 Augusto Minzolini. Berlusconi mi avrà telefonato 2 o 3 volte, non di più, e comunque siamo alla follia. Credo di essere la persona più cristallina del mondo, quello che penso lo dico in TV. Questa è la reazione dunque del direttore del TG1 Augusto Minzolini. E noi voltiamo pagina, andiamo all'economia, cominciamo con Cernobbio per il Forum Ambrosetti e ci colleghiamo con Massimo Di Scienza. Sì, buongiorno da Cernobbio. Una ripresa più lenta e debole del previsto dopo la crisi globale. In Italia, secondo lo studio di Confcommercio presentato in apertura della 2 giorni qui a Cernobbio, il prodotto interno lordo quest'anno aumenterà dello 0,8%, una stima rivista al ribasso rispetto all'1% ipotizzato. Nel 2011 l'aumento del PIL sarà di 1 punto percentuale. Stesso trend per i consumi, che quest'anno cresceranno solo dello 0,6%. Secondo Confcommercio, con questi ritmi, per tornare ad un livello di PIL pro capite di prima della crisi, bisognerà attendere tra i 5 e gli 8 anni. E allora, per irrobustire la crescita, secondo il presidente Carlo Sangalli, bisogna liberare risorse per piccole e medie imprese, servizi e turismo e puntare sul mezzogiorno. Tra le priorità, accelerare sulla strada del federalismo fiscale, insieme ad una riforma che possa ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro e poi proseguire nella lotta alla criminalità. Sentiamo Sangalli. Fare in modo che il mezzogiorno cresca di più, si sviluppi di più come condizione di maggiore crescita e maggiore sviluppo per l'intero paese, però con un prerequisito fondamentale che è quello di un rigoroso impegno per la tutela della legalità e della sicurezza contro la zavorra della criminalità, che peraltro brucia l'8% del PIL del mezzogiorno prodotto dall'economia dei servizi. Promossa infine la Banca del Sud, se faciliterà l'accesso al credito per piccole e medie imprese. Nel pomeriggio si parla di sicurezza col ministro Maroni e di lavoro con il segretario del Partito Democratico Bersani ed il ministro Brunetta. È tutto. Grazie, grazie a Massimo Di Scienza. E nel pomeriggio la presentazione degli obiettivi previsti nel piano strategico di Eni. E Eni diventa più realista sulle prospettive di produzione. La compagnia italiana, che fino all'anno scorso ambiva ad accrescere la produzione del 3,5% l'anno, si accontenta ora del 2,5% medio, con un 2010 a produzione piatta. I vecchi obiettivi decisamente aggressivi erano stati difesi più volte, compreso nel 2009, quando la produzione Eni, anche per i tagli OPEC, era scesa dell'1,6%. Il bagno di realismo ha deluso Piazza Affari. Nonostante l'annuncio di un dividendo in crescita solo dal 2011 e in linea con l'inflazione OCSE, se le attese sulla produzione si abbassano, Eni resta molto ambiziosa in altri ambiti. Gli investimenti saranno accresciuti dell'8% rispetto all'ultimo piano strategico, a 52,8 milioni di euro in 3 anni. Gli obiettivi di riduzione dei costi salgono addirittura del 20%, a 2,4 miliardi sempre nel triennio, e per la raffinazione in forte perdita si prevede un ritorno all'utile nel 2012, traguardo che sembra lontano ma che gli analisti giudicano davvero sfidante. Sissi Bellomo, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed ora la manifestazione CGIL in varie città d'Italia. Ci colleghiamo con Roma e con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno da Roma, dove si è appena conclusa la manifestazione della CGIL con un comizio del segretario nazionale Panini. Hanno sfilato questa mattina per oltre 3 ore tutte le rappresentanze dei lavoratori, un corteo pacifico e colorato che insieme a quello dei Cobas della scuola, insieme al blocco dei trasporti, ha però paralizzato il traffico della città. La CGIL chiede al governo una riforma fiscale che tagli le tasse ai lavoratori dipendenti e pensionati, misure a sostegno dell'occupazione con un immediato stop ai licenziamenti e la prosecuzione della cassa integrazione in deroga, ma anche la difesa dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori messo in discussione secondo la CGIL dalle norme sull'arbitrato. Una CGIL che ha protestato in tutta Italia, a Padova comizio del segretario generale Epifani, il paese è alle pezze, ha detto il numero uno della CGIL, i lavoratori stanno male, la disoccupazione aumenta soprattutto nelle aree più industrializzate e il governo non fa nulla. Epifani ha anche spiegato la scelta di Padova per non dimenticare i 13 suicidi tra piccoli imprenditori, artigiani e lavoratori nel nord Est, un dramma che il governo ha detto non vuole vedere. Da Roma è tutto. Grazie mille ad Alessandra Schepisi. Lo sciopero CGIL sta creando disagi anche a chi deve spostarsi con i mezzi pubblici. A Torino non circoleranno o potrebbero non circolare dalle 17.45 alle 21.45, a Milano dalle 18 alle 22. A Roma lo stop ai mezzi pubblici terminerà fra poco, mentre a Napoli a rischio la fascia 20-24. Per gli aerei a rischio invece fino alle 14, sempre per 4 ore dalle 14 alle 18 scatterà la protesta dei lavoratori del trasporto ferroviario. E a Roma una vicenda davvero inquietante avvenuta questa mattina. Giocava al tiro al bersaglio sparando ai passanti dalla finestra. Un ragazzo di 15 anni in gita scolastica è stato ferito all'orecchio. Fermato un uomo di 39 anni italiano che ha raccontato di aver comprato la pistola in un'armeria della capitale, che voleva provarla senza l'intenzione di far male a qualcuno. Maxi sequestro a Rignano sull'Arno, in provincia di Firenze, 13.000 metri quadrati di Eternit contenenti amianto, abbandonati all'interno di un ex stabilimento. Sentiamo il comandante della Guardia di Finanza di Pontassieve, Luigi Cioffi, al microfono di Cristina Carpinelli. All'interno di quest'area sono stati rinvenuti circa 13.000 metri quadrati di ongiuline di Eternit, che erano, diciamo, in uno stato evidente di degrado, c'era insomma evidente rilascio di materiale di amianto insomma da queste onduline. Poi se si considera che è un'area sia dal punto di vista residenziale che produttiva abbastanza popolata, è evidente il rischio per la salute pubblica. Ecco, adesso i proprietari di quest'area che cosa rischiano? Rischiano un arresto che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni. State cominciando a fare delle analisi per capire se questi rifiuti hanno già impattato, hanno creato già... Assolutamente, in ogni caso consideri che lì vicino scorre un ruscello, sembrerebbe che dei detriti di queste onduline siano andati a finire anche nell'acqua. All'estero, con gli attentati in Pakistan che hanno fatto una quarantina di morti. Mentre il governo americano continua a mettere pressione su quello pakistano perché faccia di più contro l'estremismo islamico, i talebani e i loro alleati sono tornati a fare sentire la propria voce oggi, con 2 attacchi suicidi avvenuti a pochi secondi l'uno dall'altro contro altrettanti veicoli dell'esercito. Ancora una volta il teatro della strage è stata la città di Lahore, la capitale culturale del paese della provincia del Punjab, la più ricca e politicamente influente del Pakistan. A A impressionare oggi non è solo la portata dell'attacco, ma anche il fatto che la duplice esplosione giunge a pochi giorni dall'attentato avvenuto lunedì, sempre a Lahore, che ha fatto 13 morti, e dal raid, compiuto mercoledì in un centro della Northwest Frontier Province, contro una ONG americana e costato la vita a 5 operatori umanitari. Segnali difficili da fraintendere da parte di un'organizzazione, i talebani pakistani, che nonostante negli ultimi mesi sia stata ripetutamente decapitata, continua a essere in grado di colpire, anche lontano dalle proprie roccaforti. Marco Masciaca, GR24, Sole 24 Ore, New Delhi. Questo invece succede in Cina. Dai campi di rieducazione ai campi anticorruzione. Pechino spedisce di forza più di 200 arbitri a frequentare corsi di 5 giorni per mantenere l'integrità, in un tentativo di ridare lustro a un campionato di calcio compromesso dall'enorme scandalo degli ultimi mesi. Le indagini avviate nel novembre scorso avevano coinvolto il gotha del calcio cinese, dal capitano della nazionale Yang Zhe fino al presidente della China Football Association e all'ex designatore arbitrale Zhang Jianqiang, tutti coinvolti in un gigantesco giro di frodi sportive e partite truccate. L'inchiesta sulla calciopoli cinese gode del massimo appoggio politico. Contro il cancro che sta divorando il mondo del football si erano espressi addirittura il presidente Hu Jintao e il suo vice Xi Jinping. Tra le prove sequestrate nel corso delle indagini di questi mesi ci sono i computer utilizzati per le scommesse sulle partite truccate e le testimonianze delle prostitute pagate per ammorbidire gli arbitri in vista degli incontri. Basteranno 5 giorni di addestramento per rendere gli arbitri impermeabili a ogni lusinga? Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato del TAR, che come sapete ha bocciato il regolamento sulla par condicio. Tornino dunque in TV i talk show politici. Telefonate per bloccare anno zero di Pietro contro Minzolini, vada via a pedate, dice. La ripresa in Italia sarà lenta, secondo la Confcommercio, disagi nelle città per lo sciopero CGIL, Epifani, il paese è alle pezze. Poi abbiamo parlato del caso di cronaca davvero assurdo avvenuto a Roma, vuole provare la pistola che ha appena acquistato e spara a caso dalla finestra, ferito a Roma uno studente in gita scolastica. E riprendiamo invece parlando dell'importante decisione presa di recente dai giudici calabresi. Una somma simbolica che apre la strada a un riconoscimento che non ha prezzo, quello al danno che l'imprenditoria subisce quando la mafia deturpa l'immagine della regione. La sentenza di primo grado emessa il 2 marzo dal tribunale di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha riconosciuto per la prima volta in Italia il risarcimento simbolico di 20.000 euro a Confindustria Calabria, che si era costituita parte civile nel processo che ha condannato 38 persone accusate a vario titolo di associazione ndranghetistica, usura, estorsione, incendio, spaccio di droga e partecipazione ad associazione armata volta al narcotraffico. Il Tribunale di Castrovillari ha riconosciuto che la mafia distrugge l'immagine della regione, alla cui difesa, come hanno appunto affermato i giudici, gli imprenditori e la loro rappresentanza politica hanno pieno titolo. Una sentenza storica, ha dichiarato il presidente di Confindustria Calabria Umberto De Rose, che farà giurisprudenza e che darà la forza a tutte le Confindustrie regionali di costituirsi per difendere le imprese e contribuire all'aggressione dei portafogli dei mafiosi. Roberto Galullo, GR24, Il Sole 24 Ore. La Cassazione, come sapete, oggi era su tutti i giornali, ha stabilito che sono da espellere clandestini anche con figli che vanno a scuola in Italia. Questo era il tema del nostro sondaggio di oggi. Essere immigrati irregolari e mandare i figli a scuola non salva dall'espulsione. La Cassazione l'ha sancito ieri in una sentenza contro un padre di famiglia albanese che nel fare ricorso contro il foglio di via diceva: ho due figli minori, deve prevalere il loro diritto a studiare qui senza separarsi da me. I supremi giudici hanno deciso di no, l'infanzia va tutelata, d'accordo, ma c'è un bene superiore che deve prevalere, la tutela dei confini. Una decisione che la gran maggioranza di voi ascoltatori, il 79%, appoggia. Critica invece è Lilian Ockmin, responsabile delle donne della CISL, arrivata dal Perù 20 anni fa in Italia da irregolare. Qua viene a mancare anche un elemento sostanziale di diritto dell'unità familiare. Veramente siamo arrivati a livelli di non tener conto sull'integrità non solo morale ma anche affettiva del minore. Bianco o Nero torna lunedì mattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. A Milano in questi giorni la fiera Fa la cosa giusta, è lì per noi Laura Bettini. Buongiorno Laura, cosa hai visto fra gli stand? Buongiorno, questo è il paradiso dell'ecosostenibilità, siamo alla fiera di Milano, fiera Milano City. Questa edizione di Fa la cosa giusta si è aperta stamattina, vi domandate che cos'è? Una fiera di consumo critico, degli stili di vita appunto sostenibili, e quindi in esposizione c'è un po' di tutto, dai produttori di pannelli solari a quelli di vestiti, saponi e profumi naturali. Ci sono espositori provenienti da tutta Italia, ci sono però anche workshop, sessioni di studio e di approfondimento per studenti e amministratori. Con noi c'è Giovanni Petrini, responsabile generale della fiera, e quindi a lui rivolgiamo subito la domanda. Quest'anno vi rivolgete appunto alle amministrazioni ma anche alle imprese, con una sessione dedicata che si chiama Servizi Sostenibili. Di che si tratta? Buongiorno a tutti, abbiamo raccolto alcune proposte per rendere la propria attività lavorativa più verde e più rispettosa dell'uomo. Pensate a consegnare i pacchi per esempio in bicicletta e non con il motorino, pensate a stampare tutta la carta della vostra comunicazione su carta certificata o su carta riciclata con metodi ecosostenibili, con inchiostri che non inquinano, oppure a utilizzare per il trasporto delle vostre merci un pallet che è fatto con legno del Po, dei pioppi del Po, e quindi assolutamente a filiera corta e controllato. Questo appunto per imprese, aziende, amministrazioni. C'è anche una sezione dedicata al verde urbano, e questo per i cittadini, per chi vuole un po' cimentarsi con gli orti, no? Sì, perché no? Grazie, sì, grazie Laura, grazie mille. Sentiamo che probabilmente c'erano anche degli studenti che stavano visitando Fa la cosa giusta, perché sentivamo dei ragazzi in sottofondo, dunque tante cose da imparare e da guardare a Fa la cosa giusta. Cambiamo invece decisamente argomento: abusi sessuali nei confronti di un ragazzino di 15 anni in un convento bolzanino negli anni 60. La vicenda viene raccontata oggi sul giornale di Bolzano Tageszeitung. La Curia intanto, in apertura del suo sito web, afferma che ogni abuso è uno di troppo e indica un indirizzo mail per eventuali segnalazioni. Intanto il Papa interviene su pedofilia e celibato. In diretta Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Papa Benedetto XVI ribadisce il valore sacro del celibato per i sacerdoti. Lo fa in occasione del suo discorso al convegno della Congregazione per il Clero, dopo che nei giorni scorsi una dichiarazione del Cardinale di Vienna sembrava indicare proprio il celibato tra le cause della diffusione della pedofilia fra religiosi. Parole che il Pontefice pronuncia oggi, nel giorno in cui il quotidiano La Repubblica dà notizia di quello che chiama un progetto segreto del Vaticano, che per il quotidiano sarebbe quello di abolire il celibato in 50 anni. Celibato che è autentica profezia del regno ed espressione del dono di sé a Dio e agli altri, spiega Papa Ratzinger, che aggiunge che quella sacerdotale è un'altissima vocazione, un ministero, continua Benedetto XVI, che va custodito da limiti e debolezze umane. I sacerdoti perciò devono vivere con profonda fede il dono prezioso del sacerdozio, esorta il Papa, che nel suo discorso tuttavia non accenna mai in modo esplicito agli scandali di pedofilia che travolgono la Chiesa Cattolica in Europa. Per Papa Ratzinger inoltre anche dall'abito il sacerdote deve trarre la sua identità sacramentale. I preti non possono essere ridotti a operatori sociali, aggiunge. Il convegno dedicato appunto alla figura del sacerdote si conclude poi con un annuncio di servizio che arriva dalla sala stampa vaticana. Niente montagna quest'estate per Papa Ratzinger, che trascorrerà invece il riposo estivo a Castel Gandolfo. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie, grazie Maria Chiara Grandis. Restiamo in tema perché canta l'opera, il gospel, ha inciso diversi album di musica sacra, ha fatto numerosi concerti in tutta Italia. Porta avanti Frammenti di luce. Sentiamo di cosa si tratta da Suor Cristina Alfano al microfono di Katia Caramelli. Un progetto di evangelizzazione attraverso mezzi artistici. Siamo circa 60 persone, siamo 4-5 menti pensanti, siamo 5 consacrati musicisti che abbiamo appunto realizzato questo progetto che coinvolge laici, giovani della diocesi di Bari, dove appunto tutti i mezzi artistici sono messi a disposizione dell'evangelizzazione, quindi c'è un'orchestra, un coro, ballerini, voci recitanti, vengono proiettate delle immagini, tutto questo per realizzare quello che noi chiamiamo concerto meditazione. È una meditazione che dura circa un'ora che serve per aiutare a scendere in profondità l'anima di chi ci ascolta. Noi facciamo concerti in tutta Italia, poi abbiamo prodotto CD, DVD che appunto grazie a Dio girano abbastanza, e quindi ci arrivano tantissime email, telefonate, lettere di persone che erano lontane dalla fede, e grazie a un frammento di luce che è quello che noi cerchiamo di portare si è acceso qualcosa. L'intervista integrale in Riflessi d'Oltretevere in onda domenica alle 7:20. La Fondazione Pro Canale, restiamo in tema di musica, in collaborazione col gruppo 24 Ore ha realizzato un CD con le due sonate e le cinque melodie per violino e pianoforte di Prokofiev. Protagonista d'eccezione di questa registrazione Pavel Berman, che suonerà questa sera in concerto sul palco dell'Auditorium del Sole 24 Ore qui a Milano insieme al pianista Vardan Mamikonian. Spero di averlo detto bene. Il curatore e conservatore della Fondazione Pro Canale, Francesca Peterlongo, al microfono di Adriana Fracchia. Dopo 10 anni di iniziative come mostre, convegni e concerti dal vivo, sempre in collaborazione con le istituzioni concertistiche importanti, abbiamo sentito l'esigenza di iniziare a avere poi un nostro archivio, prima di tutto audio, insomma diciamo per ora audio, e poi si vedrà in un futuro, perché gli strumenti vengano tutti registrati e anche per valorizzare i musicisti. Ecco, e quindi con la collaborazione del gruppo 24 Ore avete realizzato questo CD. Ma il progetto nasce da una volontà di registrazione del repertorio violinistico di Prokofiev, Sergei Prokofiev, quindi le sonate, le cinque melodie, e poi saranno registrate in seguito i concerti. La Fondazione Pro Canale ha affidato a Pavel Berman questo preziosissimo Stradivari Maréchal Berthier. Sì, lo strumento è appartenuto a Napoleone I, chiaramente Napoleone Bonaparte di Francia, che ha regalato ai suoi marescialli Berthier e Murat questi due pezzi storici come preda bellica della campagna in Spagna. Da un brutto episodio di cronaca ad una bella notizia. Succede a Treviso. 3 ragazzi down, camerieri per una sera in una pizzeria di Treviso. L'iniziativa, partita dal titolare del locale e sostenuta dal comune di Treviso, arriva a 2 mesi esatti da un gravissimo episodio di discriminazione avvenuto nello stesso ristorante. Era una domenica sera, un cliente aveva sbottato contro una famigliola vicina di tavolo dove c'era una bambina affetta da sindrome di Down. Quando si hanno dei figli mongoli è meglio restare a casa, aveva detto ad alta voce il cliente. Indignata, la famigliola aveva lasciato il locale senza fare troppo clamore per non ferire ulteriormente la bambina. Vogliamo provare a cancellare questa macchia, hanno spiegato oggi i titolari della pizzeria Sant'Agostino, che la sera dell'accaduto non sono intervenuti perché non si erano accorti di nulla. Dunque ecco che per una serata 3 ragazzi affetti da sindrome di Down lavoreranno, uno in sala a seguire i clienti, un altro al bancone della pizzeria e il terzo a promuovere l'iniziativa Albergo Etico per l'inserimento lavorativo dei Down. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Treviso. E chiudiamo con lo sport, in particolare con lo sci. Carlo Janka ha vinto la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero si è imposto nel gigante maschile di Garmisch in Germania, conquistando la Coppa di Cristallo con una gara d'anticipo davanti all'austriaco Reich. Secondo posto fra i pali larghi per l'azzurro Davide Simoncelli. Massimiliano Blardone, secondo nella classifica di gigante prima della gara, ha chiuso al 19° posto, scivolando al 5° posto alle spalle di Simoncelli. Per le donne invece la Coppa del Mondo di sci alpino è andata all'americana Lindsay Vonn, e non è una novità perché è la terza volta che viene vinta dall'americana Vonn, appunto. E con questo è tutto, prossima edizione di GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.